La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Io sono Franco D'Assisi e questo è il menù di questa prima puntata di maggio o ultima della fase 1, decidete voi. Si celebra in tutto il mondo lo Star Wars Day. Alla Rosa Purpurea ascoltiamo l'intervista esclusiva col mandaloriano Pedro Pascal, mentre Disney Plus mette a disposizione dei suoi abbonati il capitolo conclusivo della saga di Guerre Stellari, l'ascesa di Skywalker. Ben Affleck, massiccio e sofferto, mostra il suo inferno interiore in Tornare a vincere di Gavin O'Connor, con molti spunti vicini all'autobiografia. Incursione nel grottesco per l'opera prima di Mauro Russo, il regista dei videoclip dei Big della musica. Il film si intitola Cobra non è. Noi ne parliamo con Nicola Nocella, protagonista della scena girata dal mostro sacro dell'horror estremo Ruggero Deodato. Omar Sy, da quasi amico a quasi principe. Il principe dimenticato è la delicata storia di un rapporto padre-figlia con virate nel terreno del fantastico. Dietro le quinte della Golden Age del cinema americano con la serie Hollywood, quasi un prequel dopo il C'era una volta di Tarantino. A Lyon si conclude Vision du Réel, il festival internazionale del cinema documentario, primo fra gli eventi di una certa dimensione a trasformarsi in festival digitale. The Way Back, la strada per tornare a casa, ma anche per tornare se stessi. È la strada giusta che raramente imbocca Jack Cunningham, operaio edile, ex talento del basket, caduto nell'alcolismo dopo la morte del figlio di 9 anni. La sua vita si è fermata lì, cristallizzata, come il suo matrimonio con Angela, e da allora a trovare The Way Back è stato sempre più difficile, e rifugiarsi nell'alcol, quasi automatico. Senti, Katie Collins mi ha detto che vede la tua auto fuori dalla Rolls Bar ogni sera. Beh, se l'ha detto Katie Collins, deve essere vero. C'è sicuramente qualcosa che non va. La mattina vado a lavorare, a volte dopo il lavoro vado a farmi una birra. Sto solo dicendo... Chiamate qualcuno bravo. Ok. Bisogna risolverlo, questo caso del cazzo. Ok. Dovrebbe preoccuparsi di cose più importanti, invece di pensare a quanto bevo. Tipo stare lontana da quel cazzo di frigorifero. Carino. Sta combattendo da anni una guerra contro Ma il frigorifero. Ma di che stai parlando, Jack? Se comprassi un cazzo Smetti. Di tapirulano. Jack, adesso basta, lei è una mia amica. Dovrebbe farsi gli affari suoi. Ok. Ma ecco perché non vengo mai, ogni volta... A quel percorso irto di rovi e spine, tanto da renderlo impraticabile, a quell'uomo che somiglia tanto, ma tanto, al protagonista Ben Affleck, è dedicato questo film, The Way Back, appunto, Tornare a vincere nel titolo italiano, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, da Rakuten a Chili, da Team Vision a Infinity. La possibilità del riscatto alla faccia rotonda di Padre Devine, il preside di quella Bishop Hayes High, scuola cattolica, nella quale Jack era stato talento inarrestabile sul parquet, fino a raggiungere gli unici playoff nella storia della squadra. Ti starai chiedendo perché ti ho fatto venire qui. Il nostro coach di basket ha avuto un infarto. Mi serve un altro coach. È una buona squadra? No, gli ultimi playoff li ha fatti quando ci giocavi tu. Jack entrerà piano piano, con la sua ruvida onestà, sotto la pelle dei ragazzi, ribaltando avversari e pronostici. Ma la scimmia dell'alcol è sempre appollaiata sulla tua spalla se i demoni ti mangiano dal di dentro. Salutiamo Boris Sollazzo in collegamento con noi. Buongiorno Franco, a te e a tutti gli ascoltatori. Boris, Tornare a vincere è un classico sport drama sulla seconda possibilità che schiva i rischi di banalità e già visto grazie a due componenti principali: un'amarezza e una disperazione che ne cambiano il sapore di fondo, pur senza impedire in qualche modo il compimento della parabola di riscatto, e un fenomenale Ben Affleck, qui forse addirittura al ruolo della vita, e i tratti autobiografici sono molti, quasi avesse trasportato sul terreno del quotidiano l'animo tormentato del suo Batman. Sì Franco, senza dubbio il diamante di questo film, e non parliamo dello schema che Jack Cunningham cerca ossessivamente di far fare ai suoi ragazzi, ma parliamo proprio appunto della pietra preziosa del momento clou di questo film è l'interpretazione di Ben Affleck che indossa il suo allenatore di basket come metafora della propria vita. E ci riesce alla grandissima, riesce a raccontarsi mediando attraverso lo sport, mediando attraverso un racconto estremamente classico. Sappiamo che sia come regista, anche se qui invece il regista è Gavin O'Connor, sia come attore, lui riesce ad indossare perfettamente, pur non essendo un grande attore, bei ruoli quando sono ruoli rotondi, quando sono ruoli che hanno un significato, quando sono ruoli che lanciano in qualche modo un messaggio, specie se a se stesso. Gavin O'Connor è un altro che ha questa caratteristica. Pride and Glory è un tributo suo e del fratello al padre detective di New York, lo ha voluto fare a tutti i costi, nonostante parlasse di corruzione della polizia e fosse a ridosso dell'11 settembre. Warrior parlava appunto di come i due fratelli siano stati separati da piccoli e adesso appunto invece qui ha scelto un attore che potesse capire profondamente il dramma dell'alcolismo, il dramma anche delle occasioni perse, dell'essere arrivati in alto in fretta. Ricordiamo Affleck e Damon, premio Oscar per la sceneggiatura, poi essere crollati, essersi ripresi, vedi Argo, e poi essersi di nuovo crollati, passando anche per scandali vari. E il film è permeato di questa disperazione, quindi una storia apparentemente banale, apparentemente già vista troppe volte, e diventa qualcos'altro. E te ne rendi conto proprio a tre quarti del film, quando il film sembra finito, quando sembra aver raggiunto il suo acme, quando sembra aver esaurito tutto il deposito emozionale ed emotivo, e c'è questa appendice che ci fa capire qual è la vera sfida, qual è la vera vittoria che cerca Jack Cunningham. Non ha nulla a che vedere con quei playoff tanto agognati, non ha nulla a che vedere con il perdono, perché nessuno è disposto a perdonarlo, ma ha a che fare con se stesso. Ha a che fare con la sfida con se stesso, che è la cosa più difficile. E la regia è lineare, la scrittura pure, Ben Affleck non si risparmia, non cerca neanche di strafare, il risultato è un film che ti emoziona, che ti prende allo stomaco, che ti fa sentire il dolore, il sollievo dell'alcol e la disperazione di vite semplici e di insegnamenti che ti danno qualcosa in più. Sono film che ci eravamo disabituati a vedere e che però hanno una forza interiore che supera forse la qualità cinematografica e che te la fa bastare. E così Affleck torna a vincere, parafrasando il non felicissimo titolo italiano. Abbiamo parlato di tornare a vincere con Ben Affleck, ora linea alla regia. La Rosa Purpurea prosegue, prima con Nick Nocella a raccontarci Cobra non è, e poi con lo Star Wars Day e l'intervista esclusiva a Pedro Pascal, il Mandaloriano. A fra poco. La Rosa Purpurea. Vuole lavorare con te? 50.000 euro sul mio mixer per domani pomeriggio. Ti ricordi io chi sono? Io sono un rapper! Quell'artista ha messo dentro la sua canzone i suoi più profondi pensieri. Fanculo, son! Tu mi hai salvato la vita. Sei arrivata tu, adesso sto nella merda. Siamo. Lavoro semplice, bisogna solo entrare lì dentro e prendere soldi. Tutto in una notte, la notte di Cobra e Sonny. Il primo, rapper di ex successo e attuale declino alla ricerca di un produttore, il secondo, manager con scrupoli limitati. Sono i protagonisti di Cobra non è, di Mauro Russo, da poche ore sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Entrambi emersi da una periferia imprecisata e decadente, in un'orgia di luci al neon dai colori che sembrano presi da una scatola di evidenziatori, i due trovano la propria strada, o almeno pensano di trovarla, nel bizzoso Lazy B, DJ e producer dalle tarife piuttosto esose. 50.000 euro su questo tavolo domani mattina e vi produco il disco. A chi chiederli? Ecco che ai due viene in mente una vecchia conoscenza con cui hanno un conto in sospeso, l'americano, che pone le sue condizioni. Allora, Sonny, hai detto al telefono 20.000, giusto? In verità, non proprio, vedi, America? Diciamo 50.000. Eh? 50.000. E che problema c'è? Grazie, America. Qualche mese ti restituiamo Se tutto. non ci si aiuta fra amici. Questa voi la consegnate a un mio amico. Lui vi dà 200.000 puliti, 50 li tenete voi. E 150 li date al vostro vecchio amico americano. Una cosa facile. Certo, America. Facile, no? È facile. Nemmeno per me è stato facile farmi 7 anni senza vedervi mai. Ma se siete qua è perché l'americano non serba rancore. Chissà, Cobra, magari era destino che un giorno dovevi avere bisogno di me. Comincia così la notte brava di Cobra e Sonny. E sì, portare quella valigetta a destinazione fra striptease club e criminali d'ogni risma e provenienza, in una rissa sono coinvolti anche i cameo di Max Pezzali ed Elisa, non sarà impresa semplice. E con noi alla Rosa Purpurea c'è l'americano in persona, Nicola Nocella. Ciao Nicola. Ma ciao a te Franco, ciao, grazie per avermi invitato. Sai che io qui alla Rosa Purpurea mi sento a casa, quindi e poi qui a Radio 24 io sono felice di esserci, quindi grazie. Ciao a te e ciao a tutti quanti. Nicola, parlaci di questo personaggio, il committente dell'impresa criminale al centro della notte brava, e l'alba sarà pure peggio, narrata nel film. Come hai lavorato a questo americano che sembra uscito dritto dritto da un poliziottesco anni 70? Esattamente come dici tu, traendo spunto da quelli che sono i film poliziotteschi degli anni 70, ma anche facendoli un po' miei, passando da quello che è un certo cinema tarantiniano, insomma è inutile nasconderlo, è proprio uno dei riferimenti di questo film, del film di Mauro Russo, che secondo me, lo posso dire subito, è bravissimo, è stato molto bravo, io mi sono trovato molto bene, soprattutto mi sono sentito molto ben diretto, perché questo non è il mio mondo, come tu sai, non è esattamente il mio stile, il mio modo di approcciarmi a un personaggio è spesso più intimo, più intimista, invece questo era un personaggio tutto fuori, e Mauro mi ha spiegato il personaggio che voleva, mi ha dato dei riferimenti che erano appunto giustamente come dici tu un certo tipo di cinema degli anni 70, proprio inizio anni 80, tutto quello che è il cinema di Tarantino. Lui voleva fare un film che fosse una commedia pulp e io mi sono dovuto adeguare a questo e mi sono preparato cercando di capire come avrebbe fatto uno che viene dalla, come me insomma, col mio stesso background, che ha come mito Al Pacino in Scarface e insomma che vuole fare l'americano, vuole fare l'americano come avrebbe detto Carosone, e quello è. E ci ho provato in tutti i modi, adeguandola alla mia fisicità, divertendomi. C'è stato un grande lavoro di costume, e è stata molto brava la costumista, perché insomma ha trovato, mi ha dato un costume che facesse tanto l'americano, e mi ci sono approcciato così esternamente per cercare di dargli un senso anche come qualità di battute, col rapporto, e mettendoci dentro risentimento, ecco, quello è proprio quello che c'è più di tutto. E quando mi vedo arrivare questi due gli dico: ah sì, e adesso vedete. La regia di Mauro Russo, pur fra qualche eccesso e lungaggine di troppo, è tutta un omaggio al cinema italiano degli anni 70, tanto che la tua presenza nel film è impreziosita dalla scena di tortura girata da Ruggero Deodato, maestro del cannibal horror italiano. Com'è andata sul set con l'ottantenne regista potentino? Intanto, se gli dici che ha 80 anni, vedi come si arrabbia, assolutamente, e ti giuro che non te ne accorgi, è un fulmine, è una roba, è un tornado. Tra l'altro, la scena, vorrei che fosse chiaro, la girata a Ruggero Deodato, cioè la scena di tortura che c'è all'interno del film con me protagonista e Alessandro Giglio, il torturato è lo sceneggiatore del film, giusto per dirlo, con cui tra l'altro ho girato un altro film, ma ne parliamo magari dopo. Dicevo, la scena l'ha girata Ruggero Deodato, cioè proprio era lui sul set materialmente, non solo la scritta ma la girata, ha deciso le inquadrature, mi ha diretto, e quest'uomo è un folle, è un pazzo, non potentino, patentato, cioè una roba che non ha idea, cioè una roba incredibile. È un uomo che è un vulcano, sapeva benissimo dove mettere la macchina, come voleva le scene di tortura, sono arrivati tutti i professionisti che voleva lui per gli effetti speciali, quindi insomma lui si è divertito come un matto, sembrava un bambino in un parco giochi. E tra l'altro il fatto che l'abbia diretta esattamente lui mi ha messo in condizione di capire come dirigeva e come ci si muoveva in un certo tipo di cinema tanto tempo fa, anche appunto non avendo limiti, perché quella scena proprio è a rischio censura, cioè ha messo a rischio censura il film intero, perché Ruggero non aveva limiti, si è divertito come un matto, e cioè, è una scena che va guardata. Se vi piacciono le scene, non è neanche tanto gore, è proprio una scena di tortura divertita. Lasciami dire, il riferimento chiarissimo è alle Iene di Tarantino, e cioè, spero si capisca proprio subito. Perché è il nostro riferimento chiaro. Ecco come mi sono trovato, è stato fantastico. Questo è matto, per questo io lo amo. Che cazzo c'è? Ci sono delle persone per te. Ti avevo detto, falle aspettare di là. No. Zitto! Nicola, l'emergenza Covid ha fermato i tuoi nuovi progetti, una serie TV, ma soprattutto un film che hai scritto con Paolo Ruffini. Cosa puoi dirci di più? Sì, i progetti sono tutti fermi, ovviamente. Lasciami dire questa cosa, grazie, approfitto di te, perché noi siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire. E ovviamente io sono sulla punta del cannone, cioè io sono la punta dell'iceberg. Ero quello, a me si sono fermati dei progetti, fra cui non so di cosa tu stia parlando. Quando parli di un film di Ruffini scritto da lui, con me, diretto da lui e me protagonista, veramente non so di cosa tu stia parlando, non lo so, ti giuro. Però sì, noi ci siamo fermati, ripartiremo, spero presto, perché insomma non siamo solo noi che siamo quelli più visibili, anzi noi con la nostra visibilità abbiamo l'urgenza e il dovere di portare attenzione a chi è dietro le quinte, i famosi titoli di coda. Cioè io, una delle scene per me più importanti è Il figlio più piccolo, che è stato nel film d'esordio. C'era un momento in cui questo matto cinefilo andava in sala proiezione a dire: i titoli di coda si devono vedere perché quella è gente che lavora. Quella gente che lavora, Franco, scusa se approfitto di questo tempo, ma è giusto ricordare che necessita di un lavoro ed è giusto che torni al lavoro e che almeno ci si occupi di loro come ci si occupa di tanti altri, giustamente. Io poi stavo finendo una serie che andrà su Sky, prodotta internazionalmente con un autore forse fra i più importanti d'Italia, che era una cosa a cui tengo veramente tantissimo. Anche noi siamo costretti e vincolati al fatto di non poter raccontare cosa, non poter raccontare come, però prestissimo sarà su Sky, credo, appena riusciremo a finire le ultime settimane di ripresa, non vedo l'ora che succeda. Sai, sì, posso dirti sto lavorando tanto. Sì, è tutto fermo, spero che ricominci tutto esattamente come si è interrotto. Grazie Nicola Nocella, l'americano di Cobra non è, sulla piattaforma Amazon Prime. Ma Franco, grazie a te, grazie davvero, grazie a tutti gli amici della Rosa Purpurea, spero di tornarci presto e avere cose presto belle da farvi vedere. E mi raccomando, dal 30 aprile su Amazon Prime Video, Cobra non è, l'opera prima di Mauro Russo, un film che insomma io sono molto felice se voi riuscirete a guardare. Un abbraccio a tutti voi. E giochiamo insieme con il nostro film misterioso come tutte le settimane, un film da indovinare per vincerlo, due Blu-ray di questo film a vostra disposizione. Dimmi, sei più vecchia e dunque onnisciente, ti preoccupa mai il concetto che nulla è permanente? Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo, mi raccomando, scrivete sempre il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it per vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. E parliamo ora di un film che arriva dalla Francia, sempre sulla piattaforma di Amazon. Uno di quei film che proprio in questi giorni avremmo dovuto vedere sul grande schermo. Porta una firma importante, quella di Michel Aznavicius, premio Oscar per The Artist, e di quel film ingaggia anche la figura femminile, Bérénice Bejo, moglie del regista, al fianco del protagonista Omar Sy, il Driss di Quasi Amici. Una storia di padri, principi, figlie e principesse, quasi un Inside Out in live action. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Bene, sai che c'è? È ora di andare a dormire. Forza! Il principe è richiesto sul set tra 2 minuti. Ripeto, inizio della storia tra 2 minuti. La sera si va a letto e subito si entra in un altro mondo. È il mondo fatato che il padre, solo perché vedovo, crea ogni notte per Sofia. Il protagonista è un principe che ha le sembianze proprio del papà. Allora, dove eravamo arrivati? Il principe aveva trovato il tesoro grazie a Francis Ford il Gabbiano e si era addormentato accanto al forziere magico. Va bene, andiamo. Il principe era addormentato accanto al forziere magico. Il coperchio magico dell'enorme forziere magico si sollevò con un cigolare umido. Cos'è questo? Il cigolare umido, ti piace? Sì. Il principe, che era immerso in un sonno profondo, aveva gli occhi completamente chiusi. Chiudiamo gli occhi anche noi, amore. Tutto bene per 10 anni, ma arrivano le scuole medie e il papà si trova in difficoltà. Non è più lui il principe con abito tradizionale e mantello, quello che senza macchia combatte cattivi e draghi. Attenzione, storia tra 3 minuti. Il principe atteso sul set. Ripeto, il principe atteso sul set tra 3 minuti. Mi scusi, signore. Non può, la storia sta per cominciare. Come dice? Si può fare da parte, lasciar passare i personaggi? Io sono un personaggio. Anzi, in verità, il personaggio. Può essere, ma io ho degli ordini da rispettare, solo i personaggi della storia. Che burlone. Per favore, signore, il principe è in arrivo. Non vede che sono io il principe? Lei si è bevuto completamente il cervello. Si faccia da parte. Arriva. Posizione. Ciao. Quello chi era? Il principe. Sì, il principe ha le sembianze di un ragazzino. Il padre finisce fra gli obliati, i pezzi della vita che sono finiti nel dimenticatoio. Se vi sembra un po' Inside Out, avete ragione. Non è un cartone animato, però, quello diretto da Michel Hazanavicius, il regista di The Artist, e che ha come protagonista Omar Sy. Il doppio piano, realtà e lavoro della mente, è però lo stesso, solo che è nella testa del papà e non della ragazza. La vita di tutti i giorni si specchia nelle fiabe inventate per la bimba, che è sempre la principessa, e i personaggi che variano con la crescita in una sorta di studio cinematografico, il set dell'anima. La parola chiave è crescita, è il passaggio dall'infanzia all'adolescenza che viene raccontato in un modo che è dolce ma non mieloso, costruttivo, colorato e intelligente nel parallelo fra vita reale e finzione, grazie soprattutto alla prova del protagonista. Intanto poi crescono anche i grandi, il papà supera il lutto per la morte della moglie incontrando la nuova vicina, Bérénice Bejo, moglie e musa del regista. I genitori finiscono detronizzati, come in ogni storia di crescita, ma non scompaiono e torneranno più utili che mai, come il principe in ogni favola. Il principe dimenticato su Amazon Prime Video, linea ora alla regia, fra poco alla rosa parliamo dello Star Wars Day e con noi arriva il mandaloriano Pedro Pascal. A Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura, da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. La rosa purpurea. May the fourth be with you. May the fourth be with you. May the fourth be with you. Anakin, may the fourth be with you. May the fourth be with you, Master. May the fourth be with us all. Obi-Wan, may the fourth be with you. Goodbye, old friend. May the fourth be with you. The fourth will be with you. Always. And may the fourth be with you. May the fourth be with you. The fourth is with you, young Skywalker. May the fourth be with you. Tutte le volte che la forza è stata con noi, con voi o con chiunque ne avesse bisogno, e comunque tutte le volte che qualcuno ce l'ha augurato. May the force be with you. E che assonanza con fourth, inteso come quarto. Ecco perché il 4, fourth, maggio, May, è diventato in tutto il mondo lo Star Wars Day. Di solito lo Star Wars Day vede scendere nelle piazze di tutto il pianeta fans travestiti da Stormtrooper, spiccano le italianissime 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, cosplay nei panni di Leia e Skywalker o semplici appassionati cresciuti con la prima, la seconda e la terza generazione di film di George Lucas, sposo ormai da 8 anni di casa Disney, matrimonio che ha avuto come dote 4 miliardi di dollari. Ma quest'anno il coronavirus ha fermato persino i novelli Cavalieri Jedi e Darth Vader, così lo Star Wars Day si farà ma online. A partire dalle 11 di domenica 3 maggio, un giorno prima per permettere a quanti più fans possibile di partecipare nel giorno festivo, e fino alle 19, una diretta si terrà sui canali YouTube, Twitch e Facebook di It Comics Channel. Si potrà imparare a combattere con la spada laser o a confezionarsi un costume pronto per essere approvato dalle autorità competenti, da un'armatura da stormtrooper a una tuta da pilota ribelle. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16 toccherà il collezionismo, per parlare di pezzi introvabili, set Lego, serie preziose e altre curiosità. Poi i fumettisti italiani che hanno disegnato Star Wars, Marco Checchetto, Simone Bianchi, Stefano Landini ed Emilio Laiso. Intanto sul fronte del cinema giocato, sebbene in streaming, sono 2 le notizie forti dal mondo Star Wars, entrambe su Disney Plus. La fine della serie The Mandalorian, e fra poco ascolteremo l'intervista esclusiva al protagonista Pedro Pascal, e l'arrivo in prima assoluta televisiva del 9° e ultimo capitolo della saga, L'ascesa di Skywalker. Una sensazione. La forza ci ha fatti incontrare. Non siamo soli. La brava gente combatterà se la guidiamo. Tutti a dirmi che mi conoscono. Ma non è così. Io ti conosco. Ripristiniamo il collegamento con Boris Sollazzo. Boris, Disney sceglie la sua nuova piattaforma per piazzare un altro pezzo forte, forse il più forte di tutti. Quanto vale questo film? Cosa ha dato alla saga e soprattutto, è davvero finita? Che devo dirti, Franco, L'ascesa di Skywalker è sì un degno finale della saga e forse di tutto quanto l'universo di Star Wars. Lo è perché è programmaticamente fatto perché lo sia, veniva dopo un 8° capitolo che aveva fatto discutere tutti, che cercava di rivoluzionare l'immaginario, di cambiare strutturalmente l'universo di Star Wars. E ci sarebbe anche riuscito perché non era male, ma aveva avuto 4-5 cadute di stile, dei buchi di sceneggiatura che l'avevano devastato. E qui c'è tutto, c'è la marcia imperiale, ci sono le icone, Mark Hamill, la povera Carrie Fisher, c'è una struttura che torna al classico fin troppo, d'altronde alla regia c'è uno dei più grandi recuperatori di universi, uno dei più grandi spolveratori di miti appannati che conosciamo. E quindi L'ascesa di Skywalker, senza fare troppi spoiler, perché è vero che è passato tanto tempo dall'entrata in sala, ma adesso dall'uscita in sala, ma adesso si può vedere solo su schermi piccoli, e chi non l'ha visto non merita di sapere qual è il finale. Senza appunto dire nulla riguardo allo sviluppo della trama, però possiamo dire che abbiamo tutte le risposte a tutte le domande che si erano aperte, anche quelle più spiacevoli. Ne abbiamo fin troppe e abbiamo un epilogo che darebbe la possibilità tranquillamente al sorgere di almeno un'altra trilogia, se non 2. D'altronde Star Wars ci ha dimostrato che quando sembra aver esaurito le cartucce, pensiamo, no, al ritorno dell'universo con Jar Jar Binks e company, poi ti tira fuori invece altre 2 trilogie molto forti. Quando con L'ascesa di Skywalker, anzi col capitolo prima, sembra aver preso la sua più grande buccia di banana, ecco che arriva con un altro linguaggio, The Mandalorian, che è una serie straordinaria. E quindi io faccio molta fatica a dire è finito, si è chiuso questo universo, perché l'impressione è che possa durare in eterno. È un po' come dice Leo Ortolani, la cosa fondamentale è l'entusiasmo con cui noi amanti di Star Wars continuiamo ad andare al cinema, sempre terrorizzati dal fatto che qualcuno possa averci rovinato il giocattolo, e quindi sotto sotto speriamo sempre che il film che abbiamo visto sia l'ultimo, e sempre felici quando torna, quando arriva il primo teaser, il primo trailer del nuovo capitolo e sentiamo che non ne possiamo fare a meno. Quindi alla tua domanda, caro Franco, non so come rispondere, perché ti dovrei dire, come critico, come appassionato e anche come studioso di Star Wars probabilmente è finito tutto. Però come fan spero che la parola fine non sia stata ancora scritta, o forse sì. E se la saga non è finita, tutt'altro, deve la sua vita attuale soprattutto alle serie TV. The Mandalorian, che ha fatto da traino al lancio mondiale di Disney Plus, è giunta all'epilogo. Almeno di questa prima stagione, visto che la seconda è già stata girata e arriverà ad ottobre, e Jon Favreau sarebbe già al lavoro sulla terza, praticamente confermata. Il 4 maggio, almeno negli Stati Uniti, arriverà la serie documentaria Disney Gallery The Mandalorian, 8 puntate che esplorano ciascuna un aspetto diverso della prima serie live action dedicata a Star Wars, attraverso interviste, dietro le quinte e conversazioni presentate dallo stesso Favreau. Ma torniamo a Mando. C'erano molti rischi e un po' di apprensione per questa serie che andava ad intaccare l'immaginario di Star Wars. Invece le tonalità western scelte dal duo Jon Favreau-Dave Filoni hanno fatto centro, insieme alla linearità, ma dai perfetti meccanismi cinematografici delle trame, e alla dolcezza del mini Yoda bambino che ha dato quel tocco family alla serie. Però su tutti è spiccata alta la sagoma argentata del Mandaloriano, il cacciatore di taglie che dalle movenze all'uso parsimonioso delle parole sembra uscito dritto dritto da un film di Sergio Leone. Diciamo che, parafrasando il grande regista romano e il suo celebre parere su Clint Eastwood, Mando ha una sola espressione, quella col casco. Ma dietro quella calotta in Beskar, metallo prezioso, Pedro Pascal, che lo interpreta, è diventato un idolo planetario per i fans dell'universo Star Wars. E allora ascoltiamolo nell'intervista esclusiva rilasciata a Londra alla nostra Sonia Serafini. In The Mandalorian reciti con questa nuova e rivoluzionaria tecnica dello stagecraft. Com'è stato per te come attore? Non so se magari ti è sembrato strano. Yeah, it was weird. I went to school for theater and then when I graduated I stayed in New York and sì, è stato strano. Ho frequentato la scuola di teatro e quando mi sono laureato sono rimasto a New York e lì ho iniziato la mia carriera nei teatri. Le persone non lo sanno, ma ho speso tantissimi anni nella scena teatrale newyorkese, con una serie di spettacoli fra classici e nuovi, di successo e non. Recitare in teatro, sul palco, è una cosa molto fisica, non che non lo sia con una camera puntata addosso, ma quando devi affidarti a uno specifico personaggio o a movimenti estremamente tecnici, le tue braccia possono avere un linguaggio. Un elmo e una maschera possono suscitare emozioni. Devi rispolverare l'allenamento fatto in teatro per ricordare quanto il corpo può raccontare una storia. È stato interessante farlo in una serie TV, ma è stato decisamente come riscoprire una specie di disciplina familiare. È stato merito del mio allenamento e della recitazione fatta sul palco. That was just part of, you know, training and acting on stage. Hai già sviluppato una relazione con i fan di Star Wars, in questo caso di The Mandalorian, e se hai avuto magari paura di deluderli? I do have a kind of bond with them. I haven't felt so held by a fan reception and the invitation to kind of exist in their admiring eyeline. Of the Star Wars world. Ho un buon rapporto con loro. Non mi sono sentito trattenuto dai fan o dall'accoglienza che la serie ha ricevuto. Grazie alla meravigliosa risposta che ha avuto il mio personaggio, è stato come se fossi stato invitato in un club enorme. Essere parte di ciò ti fa sentire supportato, protetto. Ci sono momenti in cui hai l'opportunità di incontrare i tuoi fan ed è un feeling speciale quello che si crea. Devo confessare che ti fa sentire davvero bene. È piacevole. Alla gente piace creare storie sui fan di Star Wars. Per quanto mi riguarda, all'inizio avevo paura di deluderli. Ma dopo questa esperienza in cui mi sento parte di un mondo dove mi sento supportato e protetto, posso solo dire che è una sensazione bellissima. A chi ti sei ispirato per il tuo Mandaloriano? The first conversation with Jon Favreau, or at least the first time that I asked him, what should I be paying attention to before we get started? And he immediately said, you know, Sergio Leone spaghetti westerns, Clint Eastwood's Man with No Name, Akira Kurosawa's samurai films, I don't know. La mia prima conversazione con Jon Favreau, o almeno la prima volta che gli ho chiesto a cosa mi sarei dovuto ispirare prima di iniziare a girare, Lui mi ha detto: ai film di Sergio Leone, i suoi spaghetti western, al personaggio dell'uomo senza nome, ad Akira Kurosawa e ai suoi sette samurai. Anche se non sono un esperto di arti marziali, immaginare una combinazione di questa nuova tecnica scientifica con questo scenario polveroso che richiamava Sergio Leone nel personaggio e la grande moralità dei guerrieri samurai dei film di Kurosawa, tutto questo attiva la tua immaginazione, sperando che porti dei risultati nel tuo recitare e nella tua voce. Questo è ciò che vuoi rappresentare in modo iconico. Ovviamente il merito è anche del reparto creativo e del genio di John e Dave, che sono dei grandissimi registi, che hanno saputo mantenere alto lo standard pur personalizzando la storia. Ci siamo ispirati a Leone e Kurosawa, ma c'è davvero molto di più. Pedro Pascal, il Mandaloriano alla rosa purpurea. Grazie a Sonia Serafini per la sua intervista realizzata a Londra. Noi a questo punto giochiamo di nuovo insieme, perché c'è da farvi ascoltare la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo sempre temuto che i suoi poteri fossero troppo per questo mondo. Ora dobbiamo sperare che bastino. Davvero impossibile non indovinarlo questa volta, ma comunque scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo alla rosa purpurea @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano e fra pochi minuti risolviamo tutto. E ora parliamo di festival all'epoca del coronavirus. Come sapete, molti festival, grandi e piccoli, sono stati per ora rinviati a dopo l'estate, altri a data da destinarsi, altri ancora hanno gettato la spugna e dato appuntamento, speriamo, al 2021. L'ultimo in ordine di tempo è stato il Festival di Locarno, che in settimana ha dato forfè sulle classiche date di inizio agosto. Persino Cannes ha dovuto ammettere che il Festival 2020 si farà, ma sotto altre forme, al momento non è dato sapere quali, mentre Venezia e Toronto per il momento confermano le date di inizio settembre, ma pensano a formule ibride, un po' live, un po' digitali. E di queste ore invece l'annuncio di un'iniziativa importante che vede insieme 20 grandi rassegne internazionali capitanate dal Tribeca di New York, un festival digitale di 10 giorni dal 29 maggio al 7 giugno su YouTube, con lungometraggi, corti, musical, tutti gratuiti e senza pubblicità, con donazioni libere all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi terremo ovviamente informati su questa iniziativa, che seguiremo anche qui alla Rosa Purpurea. In questo panorama critico spicca il festival Vision du Réel, che dal 17 aprile al 2 maggio ha scelto la strada dell'interamente digitale, primo fra i festival di una certa dimensione e importanza a farlo. Quello di Nyon in Svizzera, sul lago di Lemano, a due passi da Ginevra, è infatti uno dei principali festival mondiali dedicati al cinema documentario. Noi ne parliamo con Giona Nazzaro, critico cinematografico e curatore della rassegna svizzera. Ciao Giona! Buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Allora Giona, Vision du Réel ha scelto la via del digitale, film caricati sul sito, platee virtuali da riempire e si riempiono, film visti da casa da spettatori addetti ai lavori. Com'è fare un festival totalmente digitale? Quanto si sente la mancanza del pubblico e del grande schermo? E come stanno reagendo i vostri spettatori? L'edizione di quest'anno di Vision du Réel è stata organizzata per svolgersi fisicamente nei cinema, nelle sale e nei luoghi deputati del festival. Quando la crisi del Covid-19 ci ha messo di fronte alle decisioni prese dalle autorità federali elvetiche, cioè quella di chiudere il paese per contenere il contagio, di fronte alla possibilità di salvare in qualche modo il lavoro svolto sino a quel momento, quindi il lavoro delle persone che si sono impegnate nella realizzazione del festival, ma anche e soprattutto il lavoro dei produttori, distributori, registi, venditori e tutte le persone che avevano accettato di presentare i loro film per la prima mondiale a Vision du Réel, abbiamo deciso che fosse il caso di avventurarci su questa strada dell'edizione digitale del festival. Questa scelta è stata salutata con grande entusiasmo da parte del pubblico, posso davvero dire di tutto il mondo, perché attraverso lo schermo del proprio PC tantissime persone davvero di tutto il mondo hanno avuto accesso ai titoli del festival, quindi la risposta del pubblico è stata estremamente positiva e probabilmente questa è una delle edizioni attraverso le quali abbiamo raggiunto probabilmente il più ampio numero di pubblico sinora. Giona, dacci due linee guida dell'edizione di quest'anno, se si sono riscontrate tematiche ricorrenti e che presenza ha avuto il documentario italiano? La Vision d'Urel da molti anni ormai lavora intorno a quei territori del cosiddetto cinema del reale, dove le forme nuove della messa in scena, del racconto, della costruzione del racconto si intrecciano con le tematiche politiche più urgenti. Per quanto riguarda invece il documentario italiano, gode di ottima salute ed è soprattutto grazie ai festival non italiani che questa parte importantissima della nostra produzione cinematografica viene valorizzata come si deve. Mi permetto di segnalare un titolo in particolare che è Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, dedicata alla comunità che vive all'idroscalo di Ostia. Spero che il film, dopo il Festival Vision d'Urel e dopo l'emergenza che stiamo vivendo, possa essere visto, fruito, apprezzato anche dal pubblico italiano. Grazie Giona Nazzaro e a presto. Grazie a voi per la pazienza, l'ascolto e a risentirci presto. Linea ora alla viabilità, fra poco torniamo con il gran finale, la serie Hollywood che ci racconta il lato oscuro della Mecca del cinema e la soluzione del nostro DVD game, fra poco. La rosa purpurea. This town's all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland. Get in the car with them, have a drink maybe. You know, sometimes you have to service. No, I came here to be a movie star. Dreamland è la parola d'ordine per passare il portone di Hollywood, un portone che in verità spesso ha la forma di un letto, ma oltre il quale si dischiude il mondo dorato della Golden Age hollywoodiana, quella che subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ha riscritto la storia del cinema. E proprio la riscrittura della storia è in un certo senso la chiave di lettura della serie Hollywood, dal 1 maggio su Netflix. Cosa sarebbe successo se un gruppo di aspiranti attori e registi decisamente outsider fosse riuscito a sfondare a Hollywood al di là delle discriminazioni basate sul colore della pelle, sul genere e sulle preferenze sessuali? Cosa sarebbe stato il cinema se in quegli anni 40 una donna avesse diretto uno studio di produzione, un'attrice nera avesse ottenuto una parte da protagonista e un attore gay avesse dichiarato apertamente il suo orientamento sessuale? Sono gli interrogativi attorno ai quali ruota la serie Hollywood. La mente è quella di Ryan Murphy, creatore di serie di successo come Nip and Tuck o Glee. Il braccio in sceneggiatura e regia è quello di Janet Mock, donna afroamericana transgender. Gli attori sono tutti volti noti della serialità TV, il David Corenswet di The Politician, il Darren Criss di Glee, il Jeremy Pope che viene dal musical, la Laura Harrier vista in Black Klansman di Spike Lee. C'è anche il giovane Rock Hudson, interpretato nella miniserie da Jake Peking. Noi ne parliamo con Ilaria Feule di Fil TV. Ciao Ilaria! Hollywood è la classica serie What If, che ci racconta una storia alternativa dall'altra parte del meccanismo del cinema. Sì, chi conosce un po' l'universo seriale del molto prolifico Ryan Murphy sa bene che gli outsider sono i suoi personaggi preferiti in assoluto. Murphy ha firmato con Netflix un accordo senza precedenti, la cui cifra esatta è rimasta segreta, ma si parla addirittura di 300 milioni di dollari, e ora li sta mettendo a frutto con queste serie TV. Questa è la seconda per la piattaforma e si apre nella Hollywood del secondo dopoguerra, anzi si apre proprio sulla scritta, sulla grande insegna di Hollywood, che all'epoca era ancora Hollywood Land, prima di essere modificata. Da quell'insegna nel 1932 si è gettata, dandosi la morte, l'attrice Peggy Twistle, distrutta dalla fabbrica dei sogni che non poteva darle la fama. I protagonisti di Hollywood, della serie Hollywood, stanno preparando un film sulla storia di Peg, ma non sono autori qualsiasi. Il regista è di origine asiatica, filippina per la precisione, e lo sceneggiatore è afroamericano e per di più omosessuale. Sono tutte categorie solitamente tagliate fuori, ignorate da Hollywood, e qui Murphy invece le rimette prepotentemente al centro. In qualche modo il sapore di questa serie, Ilaria, sembra quasi un'eredità della riflessione sulla Hollywood della Golden Age lanciata da Tarantino. Lui ne parlava in chiave discendente, in chiave di declino, con il suo Once Upon a Time in Hollywood. C'è una connessione? Sì, direi che la connessione c'è, perché proprio come nel film di Tarantino, qui Murphy mette in scena alcuni personaggi realmente esistiti, tra cui per esempio Rock Hudson, George Cukor, Vivien Leigh, Hattie McDaniel, al fianco però di altri inventati di sana pianta, e tramite l'incontro fra questi personaggi fa qualcosa di simile a Tarantino, ovvero da un lato omaggia un periodo leggendario del cinema, fra l'altro qui ricostruito con una cura del dettaglio, dalle scenografie ai costumi, veramente goduriosa. Dall'altro lato però riscrive la storia, gioca a raddrizzare delle storture, gioca proprio al come se, come sarebbe andata se agli afroamericani, agli attori di origine asiatica, alle donne, agli omosessuali avessero dato una visibilità diversa a Hollywood. E così facendo, tra l'altro, ribadisce una cosa cruciale, che anche se non erano visti e non erano raccontate, tutte queste minoranze hanno costruito anch'esse Hollywood senza poter mai godere della ribalta. Grazie Ilaria Feule, abbiamo parlato di Hollywood, la serie TV su Netflix. Noi proseguiamo riascoltando il nostro film misterioso di 7 giorni fa. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende, secondo un'antica profezia, l'avvento di un uomo, un messia. E si trattava di Dune, il classico di David Lynch del 1984, film amato, odiato, ma sicuramente rimasto un film di culto nella storia. Tra l'altro, proprio mentre è pronta la nuova versione di Denis Villeneuve, l'hanno vinto e riceveranno il Dune dell'84 Francesco Campese di Calci, provincia di Pisa, e Dino Bronzi di Muggia, provincia di Trieste. Noi ci facciamo raccontare questa edizione del 1984 in Blu-ray da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, dal romanzo di fantascienza di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, primo dei 6 volumi che formano il ciclo di Dune, che è considerata uno dei capolavori del genere fantascientifico e record di vendite per un romanzo del genere con le sue 12 milioni di copie. Avrebbe dovuto essere un film di Alejandro Jodorowsky con Orson Welles e il contributo di Salvador Dalí, è diventato un film maledetto di David Lynch, prodotto da Dino De Laurentiis, un film malato ma rigonfio di fascino e risolto ma ancora mesmerico. Il Blu-ray, d'ottima qualità tecnica, è privo di extra, ma ci consente di parlare della nuova versione, che è in preparazione, firmata da Denis Villeneuve, già autore del reboot sequel versione critica aggiornata di Blade Runner. Sarà un film in 2 parti, dato che Lynch dovette sforbiciare fino all'ermetismo per farne un unico film, con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin. Giulio, diamo ora un'occhiata ai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Abbiamo parlato della serie Hollywood, del sogno di entrare nel cinema e dei compromessi con i quali confrontarsi. Tutti i temi che affrontava già nel 1965 Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, che va in onda su Rai Storia alle 21.15 di domenica 3 maggio. Certo che il tuo è un bel mestiere, dà soddisfazione. Ah, ho visto una fotografia tua su Paese Sera. 320 pagine. Scrivi molto tu, Come tutti quelli che non hanno niente da dire. Io la conoscevo bene su Rai Storia alle 21.15 di domenica. Un paio di anni fa, come sapete, FinTV pubblicò una classifica dei 50 migliori film della storia del cinema italiano. Al secondo posto, sorpresa, finì questo film di un grande regista dimenticato, Antonio Pietrangeli, autore di commedie dolci amare, di ritratti femminili sensibilissimi, di squarci di paese molto puntuti. Qui Stefania Sandrelli, meravigliosa, e Adriana, bella ragazza di campagna che parte dalla provincia per cercare successo nella capitale. Come Alice in un paese delle meraviglie, che lo è solo apparentemente, giovane donna senza ambizioni che pare un personaggio di Sartre ma provinciale, scoperca il vaso di Pandora delle ipocrisie nazionali rappresentate da un campionario di uomini in confronto ai quali i mostri di Dino Risi paiono boy scout. Iconoclasta Antonio Pietrangeli sceglie un montaggio incalzante, costruisce momenti stranianti per un film ancora modernissimo. Abbiamo parlato anche di Un Cobra, che non è, e invece è un gran film, Uomini e Cobra di Joseph Mankiewicz, su Iris alle 21 di martedì 5 maggio. You have $500,000 hidden somewhere. Somebody in this pokey must have an idea how to bust out. For $500,000, there's got to be a first time. $500,000? I got $500,000, that is, dollars in US legal currency hidden in a hole somewhere in this territory. Uomini e Cobra su Iris alle 21 di martedì. Dopo una sanguinosa rapina, il bandito Paris Pittman elimina i complici e nasconde il bottino. Viene catturato dallo sceriffo Lopman, che lo spedisce in carcere. Pittman però diviene presto il leader dei detenuti e, spargendo abilmente la voce del suo ricco tesoro nascosto, corrompe il direttore del carcere. Un grande western diretto da Joseph Mankiewicz, raffinato cineasta attento alle psicologie e ai personaggi più che alle azioni. Sono infatti Kirk Douglas, il fuorilegge, e Henry Fonda, lo sceriffo, a scatenare gli eventi, giocando a rimpiattino con un mucchio di dollari nascosti in una buca piena di serpenti. Allo spettatore l'illusione che Fonda sia ancora l'eroe fordiano moralmente giusto, e al regista il compito di dimostrare che l'etica di tutti ha un prezzo. Stupefacente il cinemascopo e momenti di tensione pura, e tra gli uomini e i cobra è sempre meglio fidare di chi striscia. Grazie Giulio, a presto. Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre l'epilogo è dedicato allo svelamento, alla risoluzione del nostro DVD Game di oggi. Il film con cui abbiamo giocato è Frozen 2, il segreto di Arendelle, film d'animazione sequel del Frozen, che è stato uno dei più grandi successi di tutti i tempi per il cinema d'animazione disneyano e non. Settimana prossima recensione della edizione in Blu-ray e vincitori, e come sempre tanto tanto cinema qui alla Rosa Purpurea, il sabato alle 18, la domenica alle 17. Un saluto da Franco D'Assisi.